9. Ascolta e controlla. 1. Ora lui sta dicendo una stupidaggine. 2. Loro stanno facendo i compiti. 3. Adesso sto ponendo tutto in ordine. 4. Lei sta traducendo una lettera in inglese. 5. In questo momento sta bevendo un cappuccino al bar. 6. In questo momento noi stiamo facendo dei lavori in casa.